soli andare lontan, dove il cielo è fatto per sognar, dolcemente sognar. Lontan, oltre il sogno andar lontan, dove il mare senza fine appar, e fa tutto scordar. Sentir l'onde lievi sussurrar d'amor, sentir nei tuoi baci l'ardore del sol. Lontan, soli soli andar lontan, dove il cielo è fatto per sognar, dolcemente sognar, dolcemente sognar.